Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io, dopo la tua illustrazione sui vari percorsi della legge elettorale, ho capito perché ci abbiamo messo 10 anni a ricambiarla, perché porta sfortuna a cambiare la legge elettorale, perché per chi la cambia, secondo i dati che ci hai portato te, sostanzialmente poi l'esito è negativo, quindi tutti si sono ben guardati dal cambiarla. Porterà sfortuna cambiare la legge elettorale, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, piomba anche la superstizione sulla politica. In realtà, naturalmente, una battuta della ministra Boschi a un incontro con il Partito Centro Democratico. Adesso, però, questo era, diciamo, uno dei temi, questo dell'Italicum più dibattuti da un po' di tempo, in particolare in questi giorni, perché sembra che ci siano delle aperture da parte del PD. Poi oggi Guerini ha detto solo che ci sono i numeri. Intanto c'è stata una schiarita tra Partito Democratico e Nuovo Centrodestra, i due componenti della maggioranza di governo, perché sapete che con queste intercettazioni, con questa inchiesta al Labirinto di Roma, di cui abbiamo parlato più volte qui a Effetto Notte, diciamo c'era stato un po' di maretta nel Nuovo Centrodestra, qualcuno che se ne voleva andare, il rischio quindi di perdere la maggioranza al Senato per quanto riguarda il Partito Democratico. Parleremo naturalmente, essendo venerdì, di politica qui a Effetto Notte, come sempre l'ultimo giorno della settimana, bilancio della settimana dei fatti più importanti della politica, però poi i temi sono molti altri. A cominciare da quello che è successo a Dallas negli Stati Uniti, con questi 5 agenti assassinati da alcuni cecchini. Poi ultimamente invece le ultime notizie parlano di un unico killer, quello che è stato ucciso, che apparterebbe o sarebbe insomma un simpatizzante delle Pantere Nere, che è una storica organizzazione rivoluzionaria afroamericana che adesso non dovrebbe esserci più, però ci sono, continua l'ispirazione. Questo è successo a una manifestazione di protesta per i neri che sono stati uccisi, cittadini afroamericani, anche in questi giorni dai poliziotti. Quindi ci soffermeremo molto su questo tema, su un'America piena di contraddizioni, continua a esserlo, no? Con un presidente americano 2 volte eletto nero, e dall'altra parte però evidentemente il problema razziale non è ancora stato superato, la polizia è un po' fuori controllo, non si sa bene che formazione abbia, oppure è troppo tesa, il grilletto troppo facile. Intanto voi per i vostri commenti naturalmente avete sempre due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, numero per WhatsApp, SMS 349-238-6666. Poi dovremmo collegarci con l'allenatore di Alex Watzer, perché il marciatore altoatesino, che sperava in questa seconda situazione in cui si trova per doping, però lui continua a dire di essere innocente, l'avevamo già sentito qui a Effetto Notte anche due mesi fa, pare che secondo ulteriori controlli che sono stati fatti sia comunque positivo al doping. Lui dice: lotterò in ogni modo per andare a Rio, ormai manca un mese alle Olimpiadi di Rio, e sentiremo, dicevo, raggiungeremo il suo allenatore Donati, che è l'esempio in Italia dell'antidoping. Insomma, un sacco di cose, un sacco di temi anche questa sera. Io, come sempre, prima di tutto, mentre voi fate le vostre riflessioni e scrivete i vostri messaggi al 349-238-6666, vi riassumo la giornata. Dallas, 5 agenti uccisi alla marcia degli afroamericani, ucciso un ex soldato, era l'unico killer. Obama parla di orribile attacco premeditato. Il vertice NATO a Varsavia, Europa e Stati Uniti firmano una dichiarazione di cooperazione tra NATO e Unione Europea. Politica italiana schiarita tra PD e Nuovo Centrodestra. Andiamo avanti insieme, dice il vice segretario del Partito Democratico Guerini, che sull'ipotesi di modifica all'Italicum chiede numeri solidi per aprire il confronto. Borsa Milano chiude in netto rialzo, più 4%, spinta dalle banche. All'assemblea ABI si è discusso di intervento pubblico. Natalità: l'Italia ha il tasso più basso d'Europa. Nel 2015 più morti che nascite, i migranti però compensano. Olimpiadi: Schwarzer sospeso per doping, lui replica: sono pulito, lotterò per andare a Rio. L'allenatore Donati, che raggiungeremo tra poco Effetto Notte, dice: prove costruite a tavolino. E l'azzurra Libania Grenot è oro nei 400 donne agli europei di atletica ad Amsterdam. Partiamo quindi dalla strage di poliziotti a Dallas negli Stati Uniti. Sono stati 5 gli agenti colpiti a morte da cecchini dopo la marcia contro l'uccisione di afroamericani da parte della polizia. Altri 7 poliziotti sono rimasti feriti. Hanno agito in stile agguato, volevano colpire i bianchi, hanno detto gli investigatori. Uno dei killer ucciso con un robot esplosivo era un riservista di 25 anni, nero, senza legami con i terroristi, vicino appunto, come vi dicevo, alle Pantere Nere. Poco fa però si è appreso che potrebbe essere il killer ucciso l'unico cecchino, si chiama Mika X. Johnson, lo afferma così il New York Times citando alcune fonti. Tuttavia altre versioni parlano di almeno due cecchini, protagonisti di un'imboscata coordinata nella quale hanno iniziato a sparare da diverse posizioni a diversi edifici. Il presidente americano Obama ha commentato da Varsavia al vertice NATO: questo attacco è premeditato, siamo inorriditi, faremo giustizia. E ha poi sottolineato: i neri uccisi dalla polizia sono un problema americano. E di questo parleremo tra poco qui a Effetto Notte. Andiamo al vertice NATO. A Varsavia il segretario generale della NATO Stoltenberg e i presidenti del Consiglio e della Commissione europea hanno firmato la dichiarazione congiunta di Unione europea e NATO per una più stretta cooperazione contro le guerre ibride, per la sicurezza cibernetica e marittima, lo scambio di informazioni e esercitazioni comuni. Obama ha annunciato a Varsavia l'invio di 1000 soldati in Polonia per rafforzare i confini a est come deterrente nei confronti della Russia. L'Europa unita, ha detto, è una delle più grandi conquiste dei tempi moderni, va preservata. Presente naturalmente anche il nostro presidente del Consiglio Renzi, presidente del Consiglio che nella sua e-news, nel suo organo di informazione, come sempre è tornato a parlare di molti temi, dalla vicenda di Fermo al referendum. Matteo Renzi ne è convinto: al referendum sulle riforme costituzionali in autunno vinceranno i sì, ma non evocando la paura, quella dei commentatori internazionali che sottolineano i rischi di una vittoria del no. È una sfida decisiva per l'Italia, dice il Premier, che chiede ai cittadini di mettersi in gioco, e proprio alla Camera parla il ministro delle riforme Maria Elena Boschi: i cittadini saranno i padri costituenti. È ovvio che dobbiamo porci anche il problema di cosa succede se per caso il referendum dovesse avere un esito negativo. Questo è indiscutibile, ma non solo per noi. È ovvio che una scelta responsabile di chi andrà a votare al referendum non può sottrarsi a questa domanda. Di sicuro non vogliamo un voto di fiducia o di simpatia sul governo. Vogliamo un dibattito serio e approfondito sul contenuto di queste riforme. Ma il tema all'ordine del giorno per evitare una vittoria del no è lo spacchettamento del referendum in vari quesiti. Possibilità che non piace a Renzi e già bocciata da Forza Italia per bocca di Renato Brunetta. Oltre al referendum c'è poi la questione delle modifiche all'Italicum, ovvero il premio di coalizione invece che di lista. Il vice segretario PD Lorenzo Guerini dice: siamo aperti al confronto se ci sono i numeri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre Guerini ha detto, insomma, ha fatto capire che c'è una schiarita tra PD e Nuovo Centrodestra, andiamo avanti insieme, ha detto. Siamo ai mercati finanziari, chiusura in volata per le borse europee con una piazza affari brillante sostenuta dalle banche. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in progresso del 4,08% ai massimi di giornata, e proprio questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea dell'ABI. Un intervento pubblico nel settore bancario non può essere escluso. Ne sono convinti entrambi, sia il governatore di Banca Italia Visco sia il ministro dell'economia Padoan. E il riferimento è in particolare alla situazione di Montepaschi. Il numero uno di Palazzo Koch parla del rischio che in un contesto di elevata incertezza si intacchi la fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario. Per questo occorrono interventi decisi che diano in tempi brevi un segnale di inversione di tendenza e possibili misure di sostegno. Tutto ovviamente nel solco delle regole europee. La normativa europea prevede la possibilità di interventi pubblici di natura precauzionale anche sul fronte della capitalizzazione. Linea condivisa dal ministro Padoan, il quale spiega: il dialogo con Bruxelles è continuo e serve a esplorare tutte le modalità di intervento pubblico che deve essere di natura precauzionale. Il governo si sta adoperando per mettere a disposizione strumenti adeguati qualora fossero necessari. Dal canto suo il presidente dell'ABI Patuelli si scaglia contro le nuove regole sui salvataggi bancari. Occorre venga rivista al più presto la normativa sulle risoluzioni e sul bail-in, innanzitutto per ciò che contrasta con la Costituzione italiana. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E siamo arrivati alla cronaca con l'uccisione del nigeriano Fermo. Sentiamo quali sono le ultime novità. Sarà l'autopsia a far chiarezza sulle cause della morte di Emmanuel Chidi Namdi, il profugo nigeriano ucciso a Fermo nelle Marche dall'ultra Amedeo Mancini. Quest'ultimo nega di avere simpatie di destra e afferma di essersi difeso con un pugno dai colpi di paletto del nigeriano, insorto contro gli insulti razzisti, scimmia africana, rivolti alla compagna Scinieri. Secondo l'accusa, l'italiano fermato per omicidio preterintenzionale aggravato dall'odio razziale avrebbe sferrato il pugno. Prima dell'autopsia di Emmanuel sono stati fatti dei controlli su alcune lesioni sul corpo di Mancini. Si moltiplicano intanto le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Scinieri, dopo il riconoscimento dello status di rifugiata. 25.000 persone hanno firmato l'appello sulla piattaforma change.org per chiedere al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, di concedere la cittadinanza italiana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A un mese dalla morte della figlia, i genitori di Federica De Luca, uccisa a Taranto dal marito insieme al figlio, sfilano in corteo i suoi genitori per ricordare tutte le vittime di femminicidio. Mostrata la foto della figlia uccisa come monito per tutti. È un'immagine che scuote le coscienze, quella di Federica De Luca, 30 anni, sul volto tumefatto, i segni delle percosse subite prima di essere soffocata con un cuscino dal marito Luigi Alfarano, che poi ha sparato al figlio Andrea, 4 anni, per rivolgere infine l'arma contro se stesso. Non è stato facile per i genitori di Federica decidere di mostrare quell'immagine della figlia scattata all'obitorio. Lo hanno fatto alla testa della fiaccolata che un mese esatto dopo il delitto è sfilata per le vie di Taranto in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. Un monito per tutti per dire no alla violenza sulle donne e sui bambini, hanno detto, e per rispondere con il loro gesto all'ex parroco della chiesa di San Pasquale, Don Tonino Nisi, ora trasferito, che durante i funerali aveva sottolineato come l'uomo che ha sterminato la famiglia prima di uccidersi avesse trovato posto in paradiso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A questo proposito, in Turchia sono almeno 3.000 in Turchia i casi registrati di uomini che hanno evitato delle condanne per abusi sessuali accettando un matrimonio riparatore con le vittime. Lo ha reso noto il capo del Dipartimento della Cassazione turca che si occupa dei reati sessuali durante un'audizione al Parlamento di Ankara. Secondo la sua ricostruzione, riportata dal quotidiano Milliyet, anche in casi di abusi sessuali da parte di più persone, quindi di violenze di gruppo, alcuni tribunali hanno annullato condanne penali dopo che uno dei violentatori ha deciso di sposare la vittima, evitando così il carcere anche agli altri. Insomma, che bella fortuna per le vittime di stupro essere sposate dai propri stupratori. Di nuovo in Italia, invece, coi dati demografici, l'Italia c'è un record negativo di nascite. Nel 2015 il nostro paese è risultato quello col tasso di natalità più basso di tutta l'Unione Europea, un 8 per mille a fronte del 10 per mille della media europea, sono dati Eurostat, secondo cui nei 28 paesi la popolazione è cresciuta passando da oltre 508 milioni a oltre 510 grazie all'apporto degli immigrati. Giancarlo Blangiardo, professore ordinario di demografia presso l'Università Milano Bicocca, al microfono di Roberta Pellegatta. Sì, sicuramente è un dato che allarma, stiamo parlando del bilancio del 2015, ma se posso aggiungere qualcosa, i primi due mesi del 2016 danno l'idea che ci sia un'ulteriore diminuzione in Italia, quindi non solo siamo al record, ma siamo a un record che nel 2016 verrà ulteriormente superato. Gli aspetti di difficoltà sul piano anche economico, occupazionale, pesano parecchio. Quindi non c'è accenno proprio di inversione di tendenza, anzi? Assolutamente, oggi fare dei figli è indubbiamente un grosso problema, ma non solo per gli italiani. Qualcuno ci diceva, ma tanto gli immigrati risolvono il problema. Non è assolutamente vero. Gli immigrati in Italia, ad esempio, negli ultimi 3 anni hanno diminuito il numero assoluto di nascite e il numero medio di figli per donna nella popolazione immigrata è sceso sotto il livello dei 2 figli per donna, cioè il ricambio generazionale. Quindi di fatto la crisi rispetto alla natalità viene sentita dalle coppie italiane, ma a maggior ragione forse dalle stesse coppie straniere che non hanno neanche i nonni ai quali affidare. Per chiudere lo sport, a partire dall'atletica, l'azzurra Libania Grenoble ha vinto la gara dei 400 donne negli europei di atletica ad Amsterdam, correndo in 50 secondi e 73. La Grenoble aveva già vinto questa gara nella precedente edizione degli europei a Zurigo. E poi questa notizia, questa tegola che arriva su Alex Schwarzer: la IAAF, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ha sospeso con effetto immediato il marciatore azzurro. L'altoatesino era risultato positivo a un controllo antidoping effettuato a inizio anno e reso noto lo scorso giugno. Schwarzer dice: io sono pulito e lotterò per andare a Rio. L'allenatore Donati, che poi raggiungeremo, vi dicevo, tra poco effetto notte, dice: sono prove costruite a tavolino. Per il tennis invece ci colleghiamo con Londra, con Wimbledon, con Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Alessandro, è finito il sogno del campione svizzero Federer? Ma sì, è stata una giornata un po' triste per gli appassionati di tennis a Wimbledon, perché Federer, che era in vantaggio per 2-7-1 contro il canadese Milos Raonic, poi ha finito per perdere al quinto set, forse non ha più la resistenza per partite che vanno addirittura oltre le 3 ore di gioco. Federer quindi eliminato in semifinale, difficili ipotizzare cosa sarà Da qui a un anno, Federer ha detto: beh, non entrerò in un congelatore aspettando il torneo dell'anno prossimo. Nel frattempo tutto come da copione per Andy Murray, che invece ha vinto facilmente l'altra semifinale con più di 6-3. A questo punto è lui il favorito. Quindi in finale vanno Wimbledon domenica. Raonic e Murray, che sarebbe il favorito. E tanto vento anche, grazie Alessandro Merli. Tienti forte, a qualche barriera. E poi invece, per quanto riguarda, quindi questa diciamo sconfitta di Federer giustifica ancora di più la campionessa Serena Williams, che sarà lei nella finale femminile insieme alla campionessa tedesca Angelique Kerber, perché a un giornalista che le aveva chiesto: ma lei, in modo un po' sprezzante, ritiene di avere lo stesso diritto di avere il premio monetario che riceve Federer? Lei lo ha fulminato con uno sguardo e poi gli ha detto: non ho dubbi, sì, lo merito. Ora io chiedo a te, ha detto al giornalista lei, se tu scrivi un articolo breve a fine mese, pensi di dover guadagnare uno stipendio più basso della bella collega che ti siede accanto e che ha firmato un pezzo più lungo del tuo? E con questo chiudiamo con il riassunto della giornata, poi cominciamo man mano con i temi dopo gli aggiornamenti per la viabilità. A proposito invece dei vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666, numero per WhatsApp e SMS, dice per esempio Marco: a voler esportare la democrazia in giro per il mondo scordandosi della propria, che tristezza, riferito agli Stati Uniti. Elena dice: l'intero pianeta umano fuori controllo, forse non è così, forse è solo che l'uomo dopo milioni di anni non ha ancora imparato a vivere in pace, ad accettare gli altri e cercare di capire le ragioni dei suoi simili. Un brutto momento. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi continuano ad arrivare al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio scrive Giuseppe da Roma: Obama dovrebbe essere rieletto, è una persona onesta e affidabile. Mentre un altro messaggio, firmatevi anche con un nome d'arte, uno pseudonimo, dice: l'America è razzista come i tempi dei poveri indiani. E tra poco ci sposteremo proprio sugli Stati Uniti con quello che è successo a Dallas. Intanto però vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Per l'appunto, la strage di poliziotti a Dallas alla marcia degli afroamericani. Il cettino identificato è 25enne riservista dell'esercito. Banche e Fondo Monetario Internazionale e Visco per un intervento pubblico. La borsa brinda, c'è il nodo Atlante. L'ABI, cioè l'Associazione delle Banche Italiane, contro il bail-in, dice è incostituzionale. Tregua a Renzi, nuovo centrodestra, e sull'Italicum sono possibili delle modifiche solo se ci sono numeri solidi, dice il vice segretario del PD Guerini. E poi la NATO che si rafforza a est, oggi c'è stato il vertice NATO a Varsavia, battaglioni davanti alla Russia, posizionati quelli americani in Polonia. Ma Mosca, sottolineano al vertice, non è un avversario. Attesa per l'autopsia su Emanuele, nigeriano ucciso a Fermo, ci sono foto della colluttazione, la moglie dice: voglio realizzare il mio sogno di diventare medico. E poi l'Italia, che ha il tasso di natalità più basso d'Europa, nel 2015 ci sono stati più morti che nati. E infine la IAF, la Federazione Internazionale di Atletica, che vieta Rio a Schwarzer, lui dice: io lotto fino all'ultimo. E poi a Wimbledon cade il sogno di Federer. Quindi iniziamo con quello che è successo negli Stati Uniti, a Dallas, in Texas, durante una manifestazione di protesta, ma pacifica, per la morte di due afroamericani uccisi negli ultimi giorni dalla polizia, uno in Louisiana e uno in Minnesota. E tra l'altro questo fatto, questa cosa che è successo in Minnesota, è stata ripresa dalla fidanzata del nero, dell'afroamericano che è stato ucciso. È veramente impressionante, ha fatto il giro del mondo. Comunque, per quanto riguarda Dallas, le prime notizie parlavano di 4 cecchini appostati sui tetti degli edifici circostanti a questa zona dove c'è stata la manifestazione, avrebbero aperto il fuoco sulla polizia uccidendo 5 agenti e ferendo altri 7. Gli investigatori hanno detto che i cecchini hanno agito in stile di agguato perché volevano colpire i bianchi. Uno dei killer è stato ucciso con un robot esplosivo, era un riservista di 25 anni, nero, senza legami con i terroristi, vicino alle Pantere Nere, che sono questa storica organizzazione rivoluzionaria americana degli Stati Uniti fondata nel 1966. Obama naturalmente ha condannato duramente questa vicenda, parlando di un atto orribile premeditato. C'è Marco Valsania, ci colleghiamo con lui, il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao. Marco, ma quindi parlavano di 4, poi sembra che siano 2, invece le ultime notizie parlavano di un unico killer, che è l'uomo che è stato ucciso, questo riservista che ha prestato servizio anche in Afghanistan. Sì. Sì, esatto, diciamo dopo le prime ore concitate di grande confusione e tensione in cui si parlava appunto di più cecchini, al momento l'unica certezza è che c'era sicuramente un cecchino, cioè come ricordavi tu il 25enne Micah Johnson, che viveva nella zona di Dallas proprio ed era appunto un 25enne riservista dell'esercito, uno specialista del genio dell'esercito, che aveva appunto servito in Afghanistan, dove aveva tra l'altro anche ricevuto numerose onorificenze, medaglie al valore. Ecco, lui sicuramente è stato diciamo lo sparatore, forse il solo sparatore. Non ci sono ancora, la polizia ha dato questa indicazione, però senza escludere ulteriori sviluppi. Altre tre persone restano fermate, al momento secondo il capo della polizia di Dallas non cooperano e quindi non hanno aiutato a far luce su eventuali complicità o ulteriori arresti legati all'eccidio di agenti che si è verificato tra l'altro proprio a due passi da dove la storia americana già era stata profondamente segnata da un episodio incredibile di sangue, cioè l'assassinio di del Kennedy. Presidente John Kennedy nel 63. Ecco, però appunto l'unica certezza al momento è che sicuramente lo sparatore certo è Micah Jones, che è stato poi, dopo lunghi negoziati poi falliti, è stato poi ucciso dagli agenti di polizia grazie a una bomba, un ordigno esplosivo a distanza. Ma era questo collocato grazie a un robot. Questo robot appunto di cui si parlava, pare che sia stata la primissima volta negli Stati Uniti usato da parte della polizia americana, questo robot che ha ucciso il killer. Sì, Marco. Sicuramente, esatto, la prima, se non una delle prime, la prima volta che si è utilizzato questo sistema per diciamo in un'operazione di polizia tradizionale. Metropolitana, insomma, diciamo, in una città. Esatto, in una città, e diciamo gli agenti e le autorità di polizia sono ricorsi a questo sistema come ultima ratio. Il capo della polizia Brown di Dallas ha detto: abbiamo chiamato appunto le trattative a lungo nella notte, quando poi si sono interrotte, si sono spezzate, tra l'altro trattative in cui il cecchino aveva dichiarato apertamente di voler uccidere poliziotti bianchi, di essere furioso per gli episodi di violenza recente di cui sono stati accusati appunto numerosi agenti di polizia un po' ovunque nel paese, e di aver deciso così questo gesto folle di prendere, imbracciare il fucile e di uccidere più poliziotti bianchi che poteva. Ecco, tra l'altro la strage di poliziotti più grave dall'11 settembre, no, se non sbaglio, Marco. Esattamente, come bilancio la tragedia di Dallas è la più grave, tanto per dare l'impressione dello shock del paese, la più grave dall'11 settembre, e sono intervenuti un po' tutti, proprio da dimensione di questo shock, da chiaramente al presidente Obama, che era trovava a Varsavia per il vertice internazionale e che ha dichiarato appunto l'episodio ingiustificabile e spregevole, al ministro della giustizia Loretta Lynch, che ha appunto confermato che questo episodio diciamo verrà perseguito e le indagini continueranno a fare completa l'episodio, e fino allo stesso capo della polizia di Dallas, che tra l'altro forse ha offerto il giudizio più sobrio, più terribile, insomma, dicendo appunto che è ora che questo tipo di violenze cessino, è ora che le tensioni tra polizia, tra gente e afroamericana, che sono un po' il grande il grande palcoscenico su cui questo episodio folle si è innescato, ecco, che queste tensioni vengano risolte. Ah, una volta per tutte, ma sembra lontana la soluzione. Grazie Marco Valsania, e chiedo scusa agli ascoltatori per l'audio, insomma, siamo collegati con gli Stati Uniti. Adesso invece saluto il professor Massimo Teodori, che è professore di storia e istituzioni degli Stati Uniti e storico esponente radicale. Professor Teodori, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo che in un paese come gli Stati Uniti, un grande paese, però dove continuano evidentemente a convivere tante incongruenze, no? Si sono fatti negli anni tante, tante lotte, tanti passi avanti. C'è un presidente nero che mai ci si sarebbe aspettati, no? A capo degli Stati Uniti, che è stato rieletto ben due volte, e ancora non si riesce a superare il problema razziale da una parte, e dall'altra la polizia è fuori controllo in questo paese, oppure sono talmente tesi e talmente prevenuti nei confronti dei cittadini afroamericani che hanno il grilletto facile. Cosa succede, professore? Innanzitutto succede che non bisogna mai considerare gli Stati Uniti come una cosa unitaria. Gli Stati Uniti sono molto diversi e le istituzioni sono molto diverse, perché, come ciascuno sa, è un paese federale, e quindi Le leggi e le istituzioni e il potere negli stati e nelle città non ha nulla a che fare con il potere federale. Questa è la domanda che molti fanno: ma come mai un presidente nero? Succedono tutte queste cose? Succedono tutte queste cose perché il presidente non può fare nulla, come non ha potuto fare nulla, ad esempio, per controllare, per limitare le armi e la diffusione delle armi. In particolare, io credo che sia stata proprio la presidenza Obama che ha rinfocolato una ostilità dei ceti più tradizionali bianchi, soprattutto in alcuni stati della profonda America, nell'Ovest e nel Sud, che teme molto che le minoranze non bianche, in particolare gli afroamericani e gli ispanici, di fatto sommergano e abbiano la meglio sui bianchi. Questo è perché il dato nuovo di questi ultimi anni è che ormai la curva demografica dei non bianchi fa sì che nel giro di pochi anni, si parla al massimo di 10 anni, i non bianchi saranno superiori ai bianchi. E questo ha messo in allarme i ceti tradizionali. Anche lo stesso fenomeno Trump deve essere in parte ricondotto a questo cambiamento strutturale della società americana. Le polizie, che dipendono dai poteri locali e quindi dai gruppi dominanti locali, evidentemente raggruppano le parti più violente di questi vecchi ceti tradizionali, che poi alimentano questo conflitto razziale con i neri, che a loro volta vivono in aree degradate e in condizioni sociali, una parte dei neri, una condizione sociale molto marginale, che alimenta poi questo scontro che qua e là si ripercuote sempre. Perché poi, tra l'altro, giustamente lei diceva, sono 50 stati, quindi anche polizie locali diverse, tradizioni diverse, cultura anche che cambia da stato all'altro, però ricordiamo che qualcosa del genere era già successo, mi pare nel 2014, una manifestazione con l'uccisione di due poliziotti, perché anche a New York, a Brooklyn, no, era stato ucciso un ragazzo nero, e poi c'erano stati tanti altri casi. Secondo lei è vero, professor Teodori, che c'è una maggiore aggressività da parte della polizia nei confronti di cittadini afroamericani quando pensano che possano magari delinquere? C'è un numero maggiore anche di Assolutamente sì, le statistiche dicono, il Washington Post poco tempo fa ha pubblicato uno studio in cui si dice che migliaia di cittadini inermi che sono stati uccisi dalla polizia in tutto il territorio degli Stati Uniti, il 40% sono dei neri. Pensi che la popolazione americana, la popolazione nera è il 12-13% della popolazione totale americana, quindi il fatto che il 40% dei cittadini inermi uccisi dalla polizia sia nera la dice come la dice lunga. Professore, per chiudere, c'è per esempio l'ascoltatrice Carola da Torino che dice: probabilmente una polizia trumpista in questo modo dimostra la sua avversione a Obama. Beh, questa è una battuta, ma c'è il rischio che, se dovesse essere eletto Trump, queste cose possano anche accentuarsi, questi fenomeni possano aggravarsi? Trump soffia sul fuoco anche perché è consapevole in maniera abbastanza chiara che se le minoranze non bianche, cioè gli afroamericani e gli ispanici, vanno a votare in massa come hanno votato in massa per Obama, lui non ha partita. cioè Trump ce la può fare solo se il la quota di coloro che partecipano, la partecipazione al voto sarà una partecipazione bassa, diciamo intorno al 50%, se la partecipazione sarà alta, cioè vanno a votare soprattutto quelli che votano di meno, le minoranze non bianche, allora la partita è chiusa per il repubblicano e sicuramente la Hillary Clinton dovrebbe farcela. Grazie professor Massimo Teodori, grazie. Buona serata. Per chiudere questa seconda parte, poi ci sentiamo a breve, scrive Emanuele al 349-238-6666, Dallas dimostra che la società multiraziale non funziona in un senso o nell'altro, crea solo tensioni che presto o tardi scoppiano. E poi anche sulla pagina Facebook, i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, c'è per esempio Elena che dice... l'intero pianeta umano fuori controllo, forse non è così, forse è solo che l'uomo dopo milioni di anni non ha ancora imparato a vivere in pace, ad accettare gli altri, a cercare di capire le ragioni dei suoi simili. Questo l'avevo già letto. Sì, Marco, a voler esportare la democrazia anche questo. Max, il problema del poliziotto che spara al povero negro andrebbe anche affrontato da voi giornalisti. Spesso, troppe volte, i giornalisti con senso di cronaca, ovvero rapinatore ucciso dalla polizia, che c'entra il colore? Beh, abbiamo appena parlato di questa statistica, Max, che la dice lunga, come è stato detto. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo state ascoltando, perché ogni sera c'è qualcuno che scrive da posti diversi, dagli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato molto, dal Lussemburgo, dalla Francia, dalla Germania. Adesso c'è il messaggio di questo ascoltatore che non si firma: credo che sia la disuguaglianza economica fra bianchi e afroamericani ad alimentare i pregiudizi e questi scontri antisistema. Continuate con i vostri messaggi sui temi del giorno al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Dallas, 5 agenti uccisi alla marcia degli afroamericani, ucciso un ex soldato, era l'unico killer. Obama parla di orribile attacco premeditato e vedo che la ministra della giustizia americana Loretta Lynch, dopo l'attacco a Dallas, apre la prima indagine federale per crimini d'odio per l'uccisione di agenti di polizia. Il vertice NATO a Varsavia, Europa e Stati Uniti firmano una dichiarazione di cooperazione tra NATO e Unione Europea. Politica italiana, ne parleremo a breve. La borsa, Milano che chiude con un netto rialzo più 4%, spinta dalle banche. E poi Olimpiadi Schwarzer, l'atleta altoatesino sospeso per doping, lui replica: sono pulito, lotterò per andare a Rio. L'allenatore Donati, che sentiremo tra poco Effetto Notte, dice: prove costruite a tavolino. Sono orgogliosa di essere la prima sindaco donna della città di Roma. E anche questo non possiamo non considerarlo un risultato straordinario. E questa è la Virginia Raggi, è uno dei temi principali della politica di questa settimana, nel bilancio appunto dei fatti principali politici di questi giorni, quindi l'inizio dell'era Raggi a Roma, di Virginia Raggi, neosindaca, poi la direzione del PD lunedì scorso e poi l'inchiesta Labirinto che ha creato un certo sommovimento, lambendo un po' il ministro Alfano dell'Interno, un certo sommovimento nel nuovo centrodestra. Sembrava che ci potesse essere così in prospettiva una crisi di governo, però oggi sembra che ci sia stata una schiarita tra PD e Nuovo Centrodestra, ci sono delle aperture forse sull'Italicum, insomma ne parleremo tra pochissimo con la nostra Barbara Fiammeri, che saluto subito, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera. Barbara, allora io, se tu mi permetti, liquiderei la vicenda Raggi con una frase, un passaggio del suo discorso ieri all'insediamento della nuova giunta di Roma, in modo che possiamo subito passare agli altri argomenti, anche perché lasciamola lavorare, vediamo che cosa succede, poi avremo un sacco di tempo per dire se le cose vanno bene o vanno male. Sentiamo questo passaggio. Questa è la prima riunione dell'Assemblea Capitolina che, dopo 8 mesi di commissariamento, segna finalmente l'apertura di una nuova era e quindi di un nuovo percorso condiviso e democratico che mancava alla nostra città. Dopo 8 lunghi mesi, Roma torna ad avere un sindaco eletto democraticamente dai propri cittadini ed è soprattutto questa la vittoria di cui dobbiamo innanzitutto ritenerci orgogliosi, aver ripristinato la democrazia in una città dove questa era venuta a mancare. Quindi inizia questa nuova era, lo sottolinea anche la sindaca Virginia Raggi. Ieri Di Maio ha detto, Di Maio sempre del Movimento 5 Stelle, faremo cose meravigliose con nessuno, tra l'altro in quota, Movimento 5 Stelle dentro la giunta. Staremo a vedere, mi sembra che per ora si possa augurare buon lavoro nell'interesse di Roma e anche degli italiani. Che dici, Barbara? Beh, certamente certamente nell'interesse dei romani. Diciamo che la costruzione della giunta è stata abbastanza difficile, come del resto lo è sempre in certo. Tutte le amministrazioni, non è questo un caso isolato. Però ha mantenuto la data del 7 luglio, che era ieri. Beh, no? Era obbligata a mantenerla, nel certo. Senso che quando c'è la presentazione in consiglio bisogna presentare anche la giunta. Diciamo che è un po', secondo me, la sintesi l'ha fatta il padre della Raggi, che era presente durante appunto il discorso della figlia, quando ha detto: se fallisce lei, fallisce il movimento. Io credo che la sintesi poi più corretta sia questa. Beh, sì. Padre, è stato laconico, ma chiarissimo e incisivo. Invece, per passare subito alla preferisci la busta numero uno o numero due? Quindi... Come vuoi tu. No, per esempio, se vogliamo sentire un passaggio di Cuperlo, molto duro, la direzione del PD, perché Renzi ha detto che si sarebbe presentato con lanciafiamme, no? Più che altro si è presentato con un muro di gomma, nel senso che non ha sembrato, almeno lì, lunedì, fare molte aperture alla minoranza. Sentiamo gli attacchi, per esempio, di Cuperlo. A Grillo mesi fa tu hai detto: esci dal blog, entra nel mondo reale. A modo suo lui lo ha fatto, e adesso a Roma e Torino col mondo reale sono costretti a misurarsi. Adesso con grande modestia però io dico a te: se puoi, esci tu dal talent di un'Italia patinata e fatta tutta di opportunità, e scopri la modestia che non è nel tono della voce. Se sei a capo della sinistra, la modestia, l'umiltà e guardare la vita di chi non attende che gli parliamo solo di un talento che forse lui non ha, ma di un giudice a Berlino e di diritti che gli spettano. Diritti, non un bonus. Quello si concede dall'alto. Molte critiche al doppio incarico di Renzi. Lui si è difeso dicendo: va bene, allora indite un altro congresso, nominate un altro segretario di partito e si vedrà. Per il momento, insomma, non molla neanche su questo punto. Vogliamo mischiare la situazione di Renzi, del PD, a quello che è successo nel nuovo centrodestra? Ma la sensazione, sì, a parte questo, però la sensazione che si ha è che sia un dibattito molto autoreferenziale quello interno al PD in questo momento, nel senso che poi anche la minoranza ripete sempre le stesse cose e a volte dà l'impressione di voler semplicemente attaccare il segretario, il loro segretario. Anche questa storia del doppio incarico, cioè, quando è stato deciso che la figura del premier coincideva con quella del segretario, Renzi era ancora sindaco di Firenze, cioè dice precedente a lui stesso. Ma certo, ed è vero che in tutti i paesi occidentali la figura del capo del partito di maggioranza che diventa premier, cioè, anche in altri paesi. Barbara, abbiamo un minuto, perdonami, solo per dire, adesso c'è questa storia dello spacchettamento che non so quanto appassioni gli ascoltatori del referendum. Deve appassionarli, invece deve appassionare i nostri ascoltatori lo spacchettamento, perché dietro questa parola così complicata è anche poco chiara, significa in sostanza se dovremmo andare a votare su un'unica scheda o su più schede sul referendum costituzionale, ad esempio, non so, sulle modifiche al titolo quinto, quindi dei rapporti con le regioni, e sulla bicameralismo. Perché però questo spacchettamento sta diventando protagonista di queste ore? In una battuta, sì. Perché cambiano i tempi del referendum, nel senso che se verrà presentata una richiesta di spacchettamento, di fatto il referendum non si potrà tenere tra ottobre o i primi di novembre, come ha detto Renzi, ma si andrà inevitabilmente al 2017, e a quel punto la possibilità di un governo di scopo, come si è detto in questi giorni in seguito alla crisi con i centristi, cioè di un governo dopo Renzi, diventa molto più difficile, perché saremo quasi a scadenza legislatura, perché la finanziaria sarà stata approvata. E quindi diciamo che a Renzi non dispiacerebbe, avremo tempo ancora per parlarne. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri. Grazie a voi. Ciao Barbara. Andiamo subito con gli aggiornamenti per chi viaggia. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ascoltatore precisa al 349-238-6666, alle primarie del centro-sinistra di novembre 2012 Renzi contro Bersani sosteneva che non si poteva fare il candidato premier, il segretario PD, perché le primarie le stravinse Bersani, così dice questo ascoltatore. Allora, prima di passare allo spazio europeo, vi ricordo velocemente le notizie più importanti: la strage di poliziotti a Dallas, alla marcia degli afroamericani, il cecchino identificato è 25enne riservista dell'esercito, e poi la tregua tra Renzi e il nuovo centrodestra sull'Italicum, modifiche sono possibili solo se ci sono i numeri solidi, dice il vice segretario del PD Guerini, e la NATO che si rafforza a est. Oggi c'è stato il vertice a Varsavia per, diciamo, in funzione di protezione dalla Russia, ma dicono a Varsavia, in questo accordo tra Unione Europea e NATO, Mosca non è un avversario. Attesa per l'autopsia su Emmanuel, sembra che sia finita l'autopsia sul nigeriano ucciso a Fermo, e questo servirà per capire come sono andate davvero le cose. Europa 24 notte. L'Europa è il primo donatore al mondo di aiuti internazionali per lo sviluppo, ma ha ancora senso un'Europa che scricchiola parlare di cooperazione? Che cooperazione e a quale scopo? Con 68 miliardi di euro l'anno, l'Europa è il primo donatore del mondo di aiuti internazionali per lo sviluppo. E tuttavia ancora 795 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare. In 25 anni di politiche di aiuti allo sviluppo dell'Europa, la situazione in certe aree dove l'Unione Europea è intervenuta, come il Sahel, non è sostanzialmente cambiata. Questo significa che i finanziamenti non sono ben indirizzati, non sono ben coordinati e diventano dunque inefficaci. Se ne è parlato a Bruxelles alle giornate europee per lo sviluppo. Uno degli interlocutori del dibattito è stata Faith Muniati, giovane avvocato che lavora per difendere i rifugiati e informare i migranti appena arrivati sui loro diritti in Sudafrica. Rappresenta l'organizzazione Lawyers for Human Rights, dove opera attivamente per sollecitare riforme giuridiche e ha rappresentato i diritti dei migranti in Africa. I think the problem comes with the misconception that aid cures poverty. Penso, ci ha detto Faith Muniati a Bruxelles, che il problema abbia a che fare con il fraintendimento della questione. Dare alle persone dell'aiuto non risolve le cause della povertà, non risolve nel lungo periodo la situazione che l'ha provocata, è solo una misura tampone. Fornire invece alle persone formazione, educazione, avere una strategia di lungo periodo per fornire gli strumenti per essere autosufficienti è invece la formula giusta per aiutare davvero questi paesi. Le persone che incontro nei campi profughi ricevono certamente degli aiuti anche in forma di cibo e vestiti, ma se non hanno accesso alla scuola, all'educazione di qualità, a un'adeguata formazione professionale, che tipo di futuro possono avere davanti? Now, if we're saying for all, we need to encompass those individuals who are in refugee camps, who are in conflict zones. Nei campi profughi e nelle zone di conflitto, questo è molto importante. L'educazione deve arrivare a tutti. Dobbiamo trovare una strategia comune per capire davvero come possiamo aiutare queste persone. Penso che questo sia lo scopo delle giornate europee dello sviluppo: trovare delle soluzioni. That's the purposes of these EDDs, to have this conversation and to try and find a solution. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo di questa tegola che è piovuta sulla testa del marciatore altoatesino Alex Schwarzer. Vi ricordate un po' la sua storia? Era stato oro olimpico a Pechino alle Olimpiadi, poi era stato invece eliminato poco prima delle Olimpiadi di Londra 2012 perché positivo agli anabolizzanti. Tutto quello che era successo, poi aveva ammesso, eccetera, e si era rimesso di nuovo in campo con umiltà, insomma con impegno, per cercare di riemergere, di tornare a essere l'atleta che era. E lo ha fatto grazie soprattutto ad Alessandro Donati, Donati, che è il suo allenatore, che è simbolo in Italia e non solo dell'antidoping. Però vi ricordate, ne abbiamo parlato poco tempo fa, che era risultato positivo a un controllo antidoping all'inizio di quest'anno ed era stato reso noto soltanto a giugno. Che cosa è successo? Che naturalmente Donati e il suo avvocato hanno chiesto le controanalisi e oggi la IAF, cioè la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ha sospeso con effetto immediato il marciatore azzurro perché sembra che abbiano confermato questa positività. Ne parliamo allora subito con il suo allenatore Donati. Professore, buonasera. Buonasera. Com'è possibile quindi? Lei aveva parlato, quando ci siamo sentiti un mese fa all'incirca, di qualcuno che evidentemente voleva sabotarlo, aveva manipolato qualcosa, perché secondo lei continua a essere un atleta pulito da quando è nelle sue mani, diciamo. Alex è un atleta totalmente pulito, è stato controllato 35 volte dall'ospedale pubblico San Giovanni a sorpresa e poi è stato controllato circa 20 volte fra sangue e urina dalla Federazione Internazionale di Atletica e dal CONI. E qui risulta solo questo risultato dell'1 di gennaio, che è in totale contrasto con la miriade di altri controlli, sempre tutti normali. Ed è chiaro per noi, ormai chiarissimo, che non è soltanto la data dell'1 gennaio, una data piuttosto singolare nella quale fare un controllo, no? Ma il viaggio lunghissimo che quel campione ha fatto fino in Germania, il tempo in cui è stato in uno sconosciuto ufficio non ben identificato degli ispettori, dove è rimasto l'intero pomeriggio, la sera e la notte, fino a che la mattina dopo è stato portato in laboratorio. E poi da quel momento in poi i comportamenti della Federazione Internazionale, che a nostro modo di vedere sono pieni di lati oscuri ed imbarazzanti. Professor Donati, se dice questa cosa è una cosa molto grave, perché stiamo parlando appunto della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, quindi... Ma vede, io vorrei ricordare che la federazione, nella quale circa un anno fa ha dovuto andarsene il presidente Lamin Diak perché faceva compravendita di positività con la Russia. Se ne è dovuto andare il figlio Papa Massata Diak, che faceva parte di questo business, e il suo avvocato senegalese Cissé. Se ne è dovuto andare il responsabile del settore antidoping della IAF, Gabriel Dollé, al quale sono stati trovati i soldi sotto la lavatrice di casa e che ha confessato di aver incassato questi soldi. Quindi, professore, vuol dire che la federazione non ha questo profilo così specchiato, insomma, con tutti questi casi? Insomma, voglio dire, chi ha letto si rende conto che qui non parliamo di una federazione internazionale specchiata, ma di una federazione piombata negli scandali proprio per maneggi sul doping, e quindi basterebbe questo per porre molta cautela, e credo dall'altra parte ci sia una persona come me che ha sacrificato la vita e non mi sono mai arricchito, anzi sono stato emarginato totalmente, impedito nella mia attività di allenatore, ecco, a garantire. Allora io ho chiesto oggi e lo ribadisco ancora, la WADA non può assistere, non possono prevalere gli ammiccamenti tra istituzioni, non può assistere passivamente, deve intervenire e promuovere una indagine con assoluta urgenza. Quindi è questo che chiederete, professore, adesso, professor Donati? Ma questo lo chiedo alle istituzioni sportive immediatamente, dopodiché mi aspetto dalle istituzioni sportive italiane un giudizio rapido ed equo. La ringrazio moltissimo, professore Alessandro Donati. Grazie. E buona continuazione, speriamo. Tempo di sapere che tempo fa dal nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Paolo, nuvole addensanti, qualcuno parla di nuvole, per niente. Per niente, ma va, sarà un weekend splendido, sarai felice tu e tutti quelli che amano il caldo, perché weekend estivo, temperature anche fino a 35 gradi o oltre, quindi ci sarà da sudare, tra l'altro in aumento pure le temperature notturne, quindi anche la sera e la notte se rischi di far fatica a prendere sonno. Ti segnalo solo qualche temporale domenica su Alpi e Prealpi, ma per il resto davvero estate piena in tutta Italia. Grazie Paolo Corazzoni, trovimento buon tempo a te comunque sia, ciao caro Paolo. E noi invece ci dobbiamo lasciare con queste buone notizie sul tempo, ci riaggiorniamo giusto un pochino alle 22.